quanto al libro interiore di segni sconosciuti, segni in rilievo, sembrava, che la mia attenzione, esplorando il mio inconscio, andava a cercare, urtava, aggirava come un palombaro che scandaglia, per la cui lettura nessuno poteva offrirmi l'aiuto di nessuna regola. La lettura stessa consisteva in un atto di creazione dove non c'è alcuno che possa sostituirci e nemmeno collaborare con noi. Quanti, così, tralasciano di scriverlo? Quanti compiti non ci si assume pur di sottrarsi a quello? Ogni avvenimento, fosse l'affare Dreyfus, fosse la guerra, aveva fornito altre scuse agli scrittori per non decifrare quel libro. Volevano assicurare il trionfo del diritto, rifare l'unità morale della nazione. Non avevano il tempo di pensare alla letteratura. Ma erano solo delle scuse, perché non avevano, o non avevano più, genio, cioè istinto. L'istinto, infatti, detta il compito, e l'intelligenza fornisce i pretesti per eluderlo. Solo che le scuse non fanno parte dell'arte. Le intenzioni non vi contano nulla. In ogni momento l'artista deve ascoltare il proprio istinto, e questo fa sì che l'arte sia quel che c'è di più reale, la più austera scuola della vita, e il vero giudizio finale. Quel libro, arduo più d'ogni altro da decifrare, e anche il solo che la realtà ci abbia dettato, il solo che sia stato impresso in noi dalla realtà medesima. Di qualsiasi idea lasciataci dalla vita si tratti, la sua figura materiale, traccia dell'impressione che essa ha prodotta in noi, è comunque il pegno della sua verità necessaria. Le idee formate dall'intelligenza pura non hanno che una verità logica, una verità possibile, la loro elezione è arbitraria. Il libro dai caratteri figurati, non tracciati da noi, è il solo nostro libro. Non che le idee formate da noi non possano essere giuste dal punto di vista logico, ma non sappiamo se sono vere. Solo l'impressione, per misera che ne sembri, la materia è inafferrabile la traccia, è un criterio di verità, e per questo lei sola merita d'essere appresa dall'intelletto, perché lei sola è capace, a patto che esso sappia estrarne quella verità, di condurlo a una perfezione maggiore e di dargli una gioia pura. L'impressione è per lo scrittore ciò che la sperimentazione è per lo scienziato, con la differenza che nello scienziato il lavoro dell'intelligenza viene prima, nello scrittore dopo. Ciò che non abbiamo dovuto decifrare, chiarire col nostro sforzo personale, ciò che era già chiaro prima di noi, non ci appartiene. Viene da noi solo quanto traiamo dall'oscurità che è in noi ed è ignoto agli altri. Un raggio obliquo del tramonto mi ricordò istantaneamente un tempo cui non avevo mai ripensato. Quando, durante la mia prima infanzia, siccome la zia Leonie aveva una febbre che il dottor Percepier temeva fosse tifoide, avevano mandato ad abitare per una settimana nella cameretta di Eulalie sulla piazza della chiesa, dove non c'era che una stuoia di sparto per terra e alla finestra una tendina di percalle, e che ronzava sempre d'un sole cui non ero abituato. E vedendo come il ricordo di quella cameretta, da ex domestica, aggiungeva di colpo alla mia vita passata una lunga estensione così diversa dal resto e così deliziosa, pensai per contrasto al niente di impressioni portato nella mia vita dalle feste più sontuose nei più principeschi palazzi. La sola cosa un po' triste in quella camera di Eulalie era che di sera, a causa della vicinanza del viadotto, vi si sentivano gli ululati dei treni. Ma poiché sapevo che a emettere quei gridi erano macchine governate, Essi non mi spaventavano come avrebbero potuto fare, in un'età della preistoria, quelli lanciati da un mammut che passeggiasse libero e incontrollato nei dintorni. Ero già arrivato così alla conclusione che non siamo affatto liberi di fronte all'opera d'arte, che non la facciamo a nostro piacimento, ma in quanto ci preesiste, e poiché è ad un tempo necessaria e nascosta, dobbiamo, come faremo per una legge della natura, scoprirla. Ma non era in fondo questa scoperta che l'arte poteva farci compiere, la scoperta di ciò che dovrebbe esserci più prezioso e ci rimane di solito per sempre ignoto? La nostra vera vita, la realtà a quale l'abbiamo sentita, e che è talmente diversa da come credevamo, che la felicità ci pervade quando un caso ci consegna l'autentico ricordo. A convincermene era la falsità stessa dell'arte pretesa realista, che non sarebbe così menzognera se non avessimo preso nella vita l'abitudine di dare a quanto sentiamo un'espressione che tanto ne differisce e che dopo poco tempo scambiamo per la realtà stessa. Sentivo di non dovermi preoccupare delle varie teorie letterarie che mi avevano turbato per un istante, in particolare di quelle che la critica aveva sviluppate al momento dell'affare Dreyfus e riprese poi durante la guerra, e che tendevano a far uscire l'artista dalla sua torre d'avorio e a trattare temi non frivoli né sentimentali, ma relativi a grandi movimenti operai e, in mancanza delle masse, quantomeno a dei nobili intellettuali, a degli eroi, anziché a degli oziosi insignificanti. «Ti dirò che il ritratto di quegli esseri vani non mi fa né caldo né freddo», diceva Bloch. D'altronde, anche prima di discutere il contenuto logico, mi sembrava che queste teorie implicassero in chi le sosteneva una prova di inferiorità. Analogamente, un ragazzo davvero ben educato che senta le persone da cui l'hanno mandato a colazione dichiarare «Noi diciamo sempre la verità, noi siamo schietti», capisce come questo implichi una qualità morale inferiore alla buona azione pura e semplice che non parla. L'arte vera non sa che farsene di tanti proclami e si compie nel silenzio. D'altronde, chi teorizzava in quel modo usava frasi fatte curiosamente somiglianti a quelle degli stessi imbecilli che bollava a fuoco. E forse è più dalla qualità del linguaggio che dal genere d'estetica che si può valutare a quale livello si è aggiunto il lavoro intellettuale e morale. Ma inversamente, tale qualità del linguaggio, e lo stesso vale per le leggi del carattere, che si possono studiare su un soggetto serio quanto su un soggetto frivolo, così come un prosettore può studiare quelle dell'anatomia sul corpo di un imbecille, quanto su quello di un uomo d'ingegno, le grandi leggi morali differendo ben poco, al pari di quelle della circolazione del sangue o dell'eliminazione renale, in individui dal diverso valore intellettuale, di cui i teorici credono di poter fare a meno. Quanti ammirano i teorici sono portati a credere che non sia prova d'un grande valore intellettuale, valore che essi hanno bisogno, per accorgersene, di vedere espresso direttamente e che non sanno dedurre dalla bellezza di un'immagine. Di qui la grossolana tentazione per lo scrittore di scrivere opere intellettuali, grave indelicatezza. Un'opera in cui vi siano delle teorie è come un oggetto cui non si sia tolto il cartellino del prezzo, e quest'ultimo ancora non fa che indicare un valore che il ragionamento logico, in letteratura, invece, diminuisce. Si ragiona, cioè si esce dal seminato ogni volta che non si ha la forza d'applicarsi a far passare un'impressione attraverso tutti gli stati successivi che condurranno alla sua fissazione, all'espressione. La realtà da esprimere risiedeva, ora lo capivo, non nell'apparenza del soggetto, ma a una profondità dove tale apparenza importava ben poco, come simboleggiavano quel rumore di cucchiaio su un piatto, quella rigidità del tovagliolo inamidato, che mi erano stati più preziosi ai fini del mio rinnovamento spirituale, di tante conversazioni umanitarie, patriottiche, internazionalistiche e metafisiche. «Basta con lo stile», avevo sentito dire allora. «Basta con la letteratura! Vita!» Si può immaginare quanto, dopo la guerra, persino le semplici teorie del signor di Norpois contro i suonatori di flauto avessero ripreso vigore. Tutti quelli che non hanno senso artistico, ossia capacità di sottomettersi alla realtà interiore, possono essere infatti provvisti della facoltà di ragionare all'infinito sull'arte. Se poi si tratta, per giunta, di diplomatici o finanzieri a stretto contatto con le realtà del presente, saranno più che disposti a credere che la letteratura sia un gioco mentale destinato ad essere in futuro progressivamente eliminato. C'era chi pretendeva che il romanzo fosse una sorta di sfilata cinematografica delle cose. Questa concezione era assurda. Niente si allontana da ciò che abbiamo percepito in realtà più di una tale visione cinematografica. Siccome, entrando in quella biblioteca, m'ero appunto ricordato di quanto dicono i Goncourt delle belle edizioni originali che essa custodisce, m'ero ripromesso di guardarle mentre ero chiuso lì dentro. E, pur non interrompendo il mio ragionamento, prendevo, uno alla volta, senza farci del resto molta attenzione, i preziosi volumi, quando, nell'aprirne distrattamente uno, François Le Champy di George Sand, mi sentii sgradevolmente colpito, come da un'impressione troppo discordante con i miei pensieri attuali, finché, con un'emozione che mi spingeva sino al pianto, non mi resi conto di quanto fosse invece in accordo con essi. Quando nella camera ardente, mentre gli addetti alle pompe funebri si preparano a sollevare la bara, il figlio d'un uomo che ha reso dei servigi alla patria stringe la mano agli ultimi amici che sfilano e sente risuonare all'improvviso sotto le finestre una fanfara, si ribella, credendo che si voglia insultare con qualche beffa il suo dolore. Ma poi, lui che è rimasto sino a quel momento padrone di sé, non può più trattenere le lacrime, perché ha capito che viene quella musica dalla banda d'un reggimento che si associa al suo lutto e rende onore alle spoglie di suo padre. Così io avevo capito come si accordasse con i miei pensieri attuali l'impressione dolorosa provata leggendo il titolo di un libro nella biblioteca del principe di Germain. Titolo grazie al quale avevo ricordato che la letteratura ci offre veramente quel mondo di mistero che io avevo smesso di trovarvi. Eppure non era un libro così straordinario. Era François Le Champy. Ma quel nome, come il nome Germain, non era per me come quelli che avevo conosciuti dopo. Il ricordo di quanto, nella storia di François Le Champy, mi era sembrato inesplicabile mentre la mamma mi leggeva il libro di George Sand. Era stato ridestato in me da quel titolo, come il nome Germain, quando non vedevo il Germain da molto tempo, conteneva per me tanto spirito feudale, così François Le Champy, l'essenza del romanzo, sostituendosi per un istante all'idea assai comune di quel che sono i romanzi del Berry di George Sand. Durante un pranzo, quando il pensiero rimane sempre in superficie, avrei potuto sicuramente parlare di François Le Champy e dei Germain come se non appartenessero né l'uno né gli altri a Combray. Ma quando ero solo, come in quel momento, scendevo a una profondità ben maggiore. In quel momento, l'idea che una determinata persona di cui avevo fatto la conoscenza in società fosse cugina di Madame de Germain, cioè di un personaggio da lanterna magica, mi sembrava incomprensibile e così pure che i più bei libri da me letti fossero, non dico superiori, cosa che peraltro erano, ma pari a quello straordinario, François Le Champy. Era un'impressione molto antica, nella quale i miei ricordi d'infanzia e di famiglia si mischiavano teneramente e che dapprima non avevo riconosciuta. In un primo momento mi ero chiesto con rabbia chi fosse l'estraneo che veniva a farmi male. Ero io, quell'estraneo. Era il bambino che io ero allora e che il libro, conoscendo di me solo quel bambino, aveva suscitato in me. Era quel bambino che il libro aveva chiamato subito perché voleva essere guardato solo dai suoi occhi, amato solo dal suo cuore, non parlare che a lui. Così il libro che a Combray mia madre mi aveva letto ad alta voce sin quasi al mattino aveva serbato per me tutto il fascino di quella notte. Certo, la penna di George Sand, per usare un'espressione di Brichot a cui piaceva tanto dire d'un libro che era scritto con penna avvertita, non mi sembrava affatto, come era sembrata per lungo tempo a mia madre, prima che i suoi gusti letterari si modellassero a poco sui miei, una penna magica. Ma era una penna che io, senza volerlo, avevo elettrizzata, come fanno spesso per divertirsi gli scolari, ed ecco che mille minime cose di Combray, di cui da molto tempo non avevo sentore, saltavano fuori con leggerezza da sole e andavano ad attaccarsi una dopo l'altra alla sua punta calamitata in una catena interminabile e tremante di ricordi.